Si ricomincia, ragazzi, non a contare i contagi, quanto a contare le foto che ritraggono persone che prendono l'aperitivo. Oggi un delirio di dichiarazioni, quasi solo sulla cosiddetta movida, sui giovani che non rispettano le regole, le code ai bar, parlano politici, sindaci, prefetti, baristi, ristoratori, semplici cittadini. Poco altro oggi è se non dati confortanti appunto dai contagi e tutta la polemica su buona fede con annesse mozioni di sfiducia che si esaurisce come previsto in una bolla di sapone. Niente sfiducia appunto. Altri elementi di giornata, il centinaio di presunti appartenenti all'Ndrangheta scoperti che percepivano il reddito di cittadinanza, l'arresto di quello che avrebbe dovuto diventare il capo dell'ISIS. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 mattino" di Simone Spezia. I'm free to do what I want at any old time. I'm free to do what I want at any old time. Liberi sì, ma quanto, caro Mick Jagger. Buongiorno care ascoltatrici e cari ascoltatori, sono le 6:31 minuti di giovedì 21 maggio, questo è 24 mattino. E la task force di questa mattina è composta da Peter Bescapè in regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione e in redazione, come sempre, Gloria Guerrera, Alessandro Marco Tulli e i nostri autori Margherita Ina e Francesco Ciaraffo. E voi che siate molto rispettosi o temibili violatori delle regole, 349-238-6666 per i vostri messaggi, WhatsApp audio, le vostre voci, fatemele sentire. Siamo anche in diretta su Facebook, come sempre, ci trovate su Instagram, su Twitter. Non è tempo di party, dice il Presidente del Consiglio. Non è ancora il tempo dei party, delle movide, eccetera. Abbiamo fatto saltare le autocertificazioni, giusto? Perché chiaramente le limitazioni devono essere strettamente necessarie. Adesso che c'è una curva sotto controllo, saltano le autocertificazioni. E nessuno pensi che sono saltate tutte le regole di precauzione, se no la curva risale, mi raccomando. Non è ancora il tempo dei party, degli assembramenti. Così Conte, uno dei luoghi più colpiti, come sapete, dall'epidemia è stata Bergamo. Il sindaco Giorgio Gori dice, insomma, qualche leggerezza l'ho vista. Abbiamo notato qualche leggerezza da parte dei cittadini che sono stati invece molto ligi fino ad oggi nel rispettare le regole, facendosi carico per la loro parte di quella No, perché io ho visto il suo video in cui era molto arrabbiato. Mi arrabbio, dice Gori, perché ci sono poche regole, se non le rispettate. Non credo che noi possiamo pretendere che da qui in avanti le persone restino chiuse in casa. Le persone giustamente hanno desiderio di uscire, di fare due passi, Città Alta è di tutti quanti e va bene, però mi arrabbio se quelle poche regole che dicono mascherine, distanze, oltre che igiene personale, frequente lavaggio delle mani, non vengano rispettate. Così dunque il sindaco di Bergamo Gori. Il tema è sul piatto, perché si invocano ulteriori strette, si chiede ai questori di intervenire, di ripristinare le multe, di sanzionare i baristi, i gestori dei locali. Vi voglio leggere in apertura un passaggio dell'editoriale di questa mattina sul giornale di Alessandro Sallusti, perché secondo me coglie un punto che c'è. Il premier è furioso, i governatori anche, i sindaci pure, troppa gente in giro a zonzo, troppi assembramenti. Avanti così, dicono, si torna alla chiusura, minacciando anche un inasprimento delle multe per chi viene colto in flagranza. Già tutto giusto in linea teorica, ma un conto sono gli assembramenti organizzati in spregio a norme e buonsenso, altro è se una somma di comportamenti corretti porta a una situazione di possibile rischio. Insomma, il punto qual è? O si chiude o si apre, sapendo i rischi che si corrono. Pensare di trasformare l'utopia in norma applicabile è tempo perso, soprattutto se parliamo di grandi numeri e di spazi liberi. Voler legiferare sulla sana incoscienza dei bambini, sugli ormoni degli adolescenti, sulla necessità relazionale dei giovani o sulle libertà personali degli adulti è una battaglia illiberale, ma soprattutto contro i mulini a vento, simile al tentativo, ovviamente fallito, di voler riaprire il calcio con le regole degli scacchi. Non male, non male. Caro Roberto Arditti, direttore editoriale di formiche.net. Buongiorno. Come stai, Roberto? Bene? Bene, bene, bene, tutto bene, buongiorno. Senti, come la vedi? Perché qua c'è un dibattito, oggettivamente. Oggi sul Gazzettino, ti faccio un esempio, c'è un'intervista al prefetto, il prefetto di Venezia, che dice: ho girato per le calli, i campi, ho visto, così, testuali parole, frotte di giovani a stretto contatto, non si sa esattamente che cosa voglia dire, insomma, no? Però il dibattito c'è, ci vuole una stretta ulteriore, bisogna stare più attenti, oppure, insomma, alla fine i bar li hai aperti, la gente ci va, Sì, anche perché nelle calli veneziane è difficile, se si esce di casa, non stare troppo a stretto contatto, perché se fossero larghe come le strade di Los Angeles uno potrebbe anche magari pensare di mantenere altre distanze, ma a Venezia è oggettivamente più difficile. Insomma, adesso, senza farla troppo lunga, è chiaro che finché si sta tutti in casa, vabbè, ma poi nel momento in cui si comincia ad uscire, un po' di queste situazioni sono inevitabili. Dall'altra parte capisco anche tutti gli appelli delle autorità, capisco più gli appelli che le sanzioni e le multe, per la verità, perché adesso ci manca solo che trasformiamo la fase 2 in una pioggia di sanzioni agli italiani, che peraltro si avviano anche a una fase di complessità economica non irrilevanti. Ci manca solo che combiniamo a queste difficoltà economiche anche un approccio, diciamo così, punitivo verso tutti i comportamenti, che secondo me, anche per come gli italiani si sono comportati nella fase 1, tutto sommato non meritiamo. Detto questo, appelli anche costanti a fare attenzione sono oggettivamente comprensibili. Poi il ragionamento di Sallusti che tu hai recuperato è condivisibile. Insomma, ci vuole grande buonsenso. Sì, molto molto semplicemente. Un ascoltatore ci scrive, un'ascoltatrice, dice: dopo 2 mesi murati in casa, basta, lasciateci vivere. Perché è chiaro, ecco, che c'è anche questo aspetto e questa sensazione. Insomma, poi le cose bisogna farle con le giuste precauzioni. Qualche ascoltatore ci segnala, e qua vi butto là una riflessione personale, ci dice: ho visto un sacco di gente senza mascherina, però vi chiedo di fare un minimo di attenzione, perché può darsi che la gente senza mascherina sia nella nostra testa, cioè talmente abituati e talmente convinti di dover trovare tutti con la mascherina, quando vediamo una persona senza mascherina la notiamo un po' di più delle persone con la mascherina. Può darsi ci sia un bias di questo tipo, Roberto. Sì, certo, è anche vero dall'altra parte che la mascherina, che è uno strumento importante, molto importante, soprattutto quando si è in ambienti magari ristretti e con diverse persone, è chiaro che se uno cammina da solo, lontano da chiunque, mascherina o non mascherina cambia poco oggettivamente. Quindi anche qui abbiamo tutti un po' imparato quali sono le regole di base del comportamento anche nell'utilizzo della mascherina, che è fondamentale quando hai altre persone nei dintorni. Se non hai nessuno nei dintorni, che la mascherina deve proteggerti da cosa? E da chi? Da sì. Nessuno. No, ecco, no, ormai l'abbiamo capito. E poi voglio essere chiaro con un ascoltatore anche che dice bravi, se poi riparte il virus ne riparliamo, complimenti al conduttore, tavolini con un sacco di gente appiccicata, come? Ma guarda, io capisco benissimo, quello che dico, bisogna rispettare queste nuove norme, non è che sto dicendo che non bisogna rispettare queste nuove norme, no? Stiamo ragionando semplicemente sul fatto se sia il caso di intervenire con nuove norme di polizia in questa situazione o affidarci al buonsenso della gente che finora ha funzionato e aspettarci che questi primi giorni di fase 2 di maggiore libertà portino le persone a commettere qualche imprudenza poi da correggere successivamente. Sì, a me sembra di vedere, penso a uno dei luoghi, diciamo, simbolo della convivialità all'italiana, che sono i bar, a me sembra di vedere in questi primi giorni della settimana, certo i bar sono aperti e la differenza è palpabile nell'interazione tra le persone rispetto a quando sono chiusi, perché tra chiuso e aperto cambia il mondo, parlo del bar. Però mi sembra anche di vedere persone che si comportano con una certa attenzione nel mantenere un po' le distanze, insomma, vedo atteggiamenti responsabili in linea di massima, ecco. Sì, poi c'è qualcuno un po' meno. Il ministro Speranza, va, sentiamolo. È una grandissima preoccupazione perché basta poco per vanificare tutto il lavoro straordinario, i sacrifici fatti dalle italiane e dagli italiani in questi mesi. E il virus non è sconfitto, il virus ancora circola nel nostro paese, ha numeri inferiori ma ancora è lì e quindi comportamenti sbagliati possono far pagare un prezzo enorme al nostro paese. Io penso che dobbiamo tenere altissimo il livello ancora di attenzione, che queste immagini non ci fanno bene, sono immagini che danno un messaggio molto molto sbagliato. E poi ci sono assembramenti di altro tipo, ieri non abbiamo avuto il tempo di raccontarla, però la vicenda più o meno la conoscete, a San Severo, provincia di Foggia, festa patronale con presumibile omaggio ad un boss che se n'è andato. Il figlio poi è intervenuto, il sindaco ha protestato, il figlio del presunto boss è intervenuto su Facebook, ha fatto una diretta a Facebook di 10 minuti minacciando lo stesso sindaco. Oggi interviene il presidente della regione Puglia, Emiliano, e dice: ragazzi, i fatti sono gravissimi, perché c'erano, non so, adesso non mi ricordo, 300 persone circa con i fuochi artificiali, le corse, eccetera, eccetera. Sentiamo. È incredibile che lo Stato non abbia avuto la capacità di impedire questa vicenda, perché ecco, è gravissimo quello che è accaduto. Così dunque Michele Emiliano. C'è tutto il capitolo della politica, della giornata di ieri. Ma veramente qualcuno ha pensato che Italia Viva avrebbe sfiduciato il ministro della giustizia Bonafede, portando il paese di fatto a ridosso delle elezioni? Ma figuriamoci! Sentiamo Renzi. Siccome noi partiamo dalla politica, nell'annunciare che voteremo contro le mozioni di sfiducia, riconosciamo al centrodestra e alla senatrice Bonino di aver posto dei temi veri. Occorre anche in dei momenti di difficoltà riconoscersi reciprocamente che la vostra mozione, che le vostre mozioni non erano strumentali. E ve lo dico dicendovi che non le voteremo. E vabbè, Roberto, no, conclusione ampiamente prevedibile, mi pare, per questa vicenda di Bonafede. Conclusione prevedibile, perché non è aria di una crisi di governo. E non sono neanche convinto poi che tutti i senatori del partito di Matteo Renzi avrebbero scelto la linea dura, sinceramente. Quindi anche Renzi ha, secondo me, fatto un esercizio di realismo anche rispetto ai suoi senatori. Ma dopodiché Renzi ha dovuto cercare un equilibrismo non semplice, mantenere un punto politico di senso in qualche modo e al tempo stesso però votare insieme al resto della sua maggioranza. Non mi sorprende, in realtà lo avevamo tutto sommato capito che sarebbe finita così. Certo, vedo anche dalle reazioni sui social che molti accusano Renzi di essere un po' all'ennesimo penultimatum al governo, un po' già, come no, il gridare al lupo al lupo, e questo è un tema. Io penso che la maggioranza attualmente al governo abbia poche o forse addirittura nessuna alternativa in questa legislatura e in questo Parlamento, e di conseguenza questo pesa per tutti gli attori di questa vicenda. Dall'altra parte dico anche che fino a quando i dati di popolarità e di consenso, in particolare la figura del Premier, hanno, che oggi sono alti, sì, molto più alti di come erano all'inizio della vicenda coronavirus, questo governo è al sicuro anche rispetto a ipotesi di rimpasto. Però quei dati devono mantenersi alti, sì, per garantire il Premier Conte. E per questo è strategico, Roberto, ne parliamo tra un attimo e dopo il traffico, per questo è strategico il funzionamento di tutti i provvedimenti economici, ovviamente, non solamente questo decreto rilancio che poi ieri è arrivato in Gazzetta Ufficiale, ma anche i precedenti, per esempio il decreto liquidità, intanto traffico. Mattino. Basta con questo criticare i giovani e la movida. Io non sono giovane, ma lasciamoli vivere e soprattutto viviamo tutti, ritorniamo a vivere. Cerchiamo più di non avere più paura di questo virus qua. Gli italiani non vanno multati, no. Gli italiani che sbagliano vanno multati perché rischiano di mandare all'aria il sacrificio di tutti coloro che sono restati in casa, che hanno perso dei soldi e così via. Beh, io lo dico all'ascoltatore, io in realtà un po' di paura del virus la conservo in tutta sincerità. E infatti, per rispondere ad un altro che ci scrive, ma tu chi ti credi di essere? Dico, guarda che quello che stiamo dicendo, amico mio, è che le precauzioni vanno mantenute, cioè va mantenuta la distanza, va tenuta la mascherina quando sei con delle altre persone, bisogna stare massimamente attenti. Non è che abbiamo detto che adesso liberi tutti improvvisamente, semplicemente che ci vuole attenzione. E però sai, se apri bar la gente ci va, non è che questo non è che lo puoi evitare. Come dicevamo, parlavamo della popolarità di Conte, Roberto Arditti, e qua tutto è concentrato su quel che succederà con i provvedimenti economici. Parliamoci chiaro, qua c'è gente che da febbraio ancora non ha ricevuto la cassa integrazione, in particolare quella in deroga. Questi sono elementi che inevitabilmente pesano. Insomma, l'accelerazione dell'applicazione di tutti questi provvedimenti è fondamentale, quasi più dei provvedimenti stessi, direi. Sì, è così. Io sono convinto che ci sia buona volontà da parte dei governanti. Per esperienza in Italia sappiamo però che la buona volontà spesso non basta. Anche nell'ultimo provvedimento, quello andato in Gazzetta Ufficiale ieri, c'è un imponente numero di pagine e un ancor più imponente insieme di riferimenti normativi nel testo di questo decreto e nei suoi articoli, che in qualche modo un po' mi inquieta, perché quando la si mette giù complicata vuol dire che poi l'applicazione, che alla fine vuol dire erogazione dei denari, comincia ad essere uno slalom tra norme e condizioni. Ecco, in questi termini il rischio, diciamo, visto che stiamo parlando di rischi di contagio sull'altro fronte, ecco, il rischio che questi provvedimenti con il loro mirabolanti numero di miliardi almeno in parte restino teorici è grande. Questo l'esperienza italiana ce lo insegna, purtroppo. Decisamente. E allora qui noi ci giochiamo non solo una partita di reale sostegno all'economia italiana e ai suoi operatori, ma, ed è per certi versi il tema che a me preoccupa di più, un tema di competitività del sistema nazionale, perché se invece, essendo l'Italia un paese esportatore anche, non solo, cioè non c'è solo il mercato interno che pure conta, c'è anche, bene, se noi mettiamo molte delle aziende italiane in condizioni di perdere la sfida di competitività con i loro concorrenti internazionali, che in alcuni paesi, cito la Germania su tutti, hanno con grande tempestività iniettato risorse nel sistema delle imprese, e noi rischiamo di trovarci con molte aziende italiane più in difficoltà nella competizione su un mercato globale che ovviamente uscirà modificato da questa prima parte dell'anno in corso. Questo è un elemento centrale, a mio avviso, su cui bisognerà fare molta attenzione, perché se finiamo con un'Italia meno competitiva fra un anno e mezzo, insomma, aggiungiamo problema al problema, ecco. Sì, sì, sì. Il tema delle norme, di come sono strutturate, e anche della quantità di norme, dell'enorme corpus normativo che è stato creato con Covid-19, tra l'altro è stato anche al centro, no, dell'intervento di ieri nell'assemblea privata del presidente di Confindustria, no, l'ha detto, con fonti normative che hanno prodotto nuove regole in migliaia di pagine, tra decreti legge, DPCM, linee guida, circolari applicative, interpretazioni prefettizie, ordinanze regionali, comunali, difficilissimo. Allora, stiamo facendo un viaggio questa settimana negli altri paesi per vedere come la stanno gestendo e come la stanno vivendo, e oggi andiamo in Spagna con Jorge Marín Rodríguez, che è editorialista del País. Buongiorno Jorge, benvenuto, ciao. Buongiorno Simone. Allora, ci dai un'idea di a che punto siamo? Cioè, era uno dei paesi che creava maggiori preoccupazioni, la Spagna, appunto. Il punto nel quale siamo, stavo sentendo la persona che ha parlato prima di me, stavo pensando, sono gli stessi problemi dell'economia, le stesse persone che sono state licenziate temporalmente e ancora non hanno preso i soldi, abbiamo gli stessi problemi con l'esportazione. Cosa capiterà con il turismo? Diciamo che ieri il presidente del Consiglio spagnolo, Pedro Sánchez, ha chiesto al Parlamento, il Parlamento l'ha approvato, un altro tempo di stato di allarma. Per noi è un sistema legale il quale permette al governo di prendere misure per l'attenuazione. Ma ad esempio in Madrid non si può uscire per strada, solo a certe determinate ore, i negozi, piccoli negozi sono chiusi, ristoranti chiusi. In altre parti della Spagna, ci sono, Jorge, giusto per rimanere sul tema, no, fasi, no, sai come sai, qua siamo entrati nella cosiddetta fase 2, mi sembra di capire che alcune zone della Spagna sono ancora in fase 0, nel senso che ancora il lockdown sì. Pieno. Certo, noi siamo, il governo per non far arrabbiare a quelle regioni della Spagna che ancora sono in fase zero, ha fatto una cosa chiamata fase 0,5. Quindi Madrid adesso è in fase 0,5, non sappiamo esattamente, esattamente che cosa voglia dire. Non sappiamo se poi passiamo alla 0,75, finalmente ci danno i voti e passiamo. Sabato e venerdì sera il governo dirà se soprattutto Madrid e Barcellona passano finalmente alla fase 1. Ancora soltanto tre piccole isole della Spagna, nelle isole Canarie e nelle Baleari, hanno passato alla fase 2. Il resto della Spagna rimane tutta nella fase 1, che è molto similare a quella dell'Italia, tranne Madrid e Barcellona, che sono in fase 0,5. Quindi il contenimento dei non si sono ancora riusciti a contenere i contagi nelle due grandi città spagnole. Il numero di contagi ha crollato, certamente, anche il numero di morti, fortunatamente. Noi in Spagna siamo oltre i 30.000 morti e il numero di contagi ha crollato. Ma capita una cosa che è più o meno normale. Nel momento nel quale c'è più gente per strada, soprattutto non diciamo il governo, i politici, ma i comitati tecnici aspettano che il numero di contagi salga ancora. Il fatto è vedere se questo numero di contagi nuovi è controllabile o no. che è il grande punto, anche italiano naturalmente. Quindi venerdì sera si saprà qualcosa di più dalla Spagna su quello che succederà nella fase successiva. Allora, vedremo, domani nuovo appuntamento all'estero, non abbiamo ancora deciso dove andare, forse si potrebbe fare... Beh, guardo Giorgio e Luca dall'altra parte del vetro, una puntata in Svezia, che mi pare il caso, perché questa strategia del teniamo tutto aperto ha incrementato il numero di vittime, ne trovate tracce oggi sui giornali in maniera notevole. Grazie Roberto Arditti, direttore editoriale di formiche.net, alla prossima Roberto, e grazie a Jorge Marin Rodriga, editorialista del País, grazie ad entrambi. Fermiamo, c'è la rassegna stampa e c'è sempre il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, per le vostre voci, la pagina Facebook dalla quale andiamo in diretta video. A tra poco.